macro occupano il progresso dell'ultramontanismo, cioè così un mezzo efficace di controllo e di dominio accresceva il potere della curia senza lotte e senza spese, trasformando un po' vecchie istituzioni della corte, adattandole ad una società europea cambiata. Secondo, per i vescovi c'era il titolo di assistenza al sommo pontificio, che includeva il rango di come romano. Erano i vescovi più vicini al cuore del Papa, che così potevano facilmente essere distinti da quelli gallicani, febroniani o giuseppini. In Germania, ancora negli anni 30 del nostro secolo, c'erano tali vescovi che traducevano nei loro annuari diocesani il titolo come romanus nel tedesco römischer Graf, il che suonava molto più feudale e equiparava il portatore al più alto livello della società tedesca. E questa è una circostanza da riferire al fatto che la maggioranza dei vescovi tedeschi apparteneva alla piccola borghesia. Il fatto che il come romanus non avesse molto a che fare con il titolo comitale tedesco, molto più raro e perciò più elevato del titolo comitale romano e italiano, era noto a pochissimi. Terzo, dei tutti simili sono i titoli per i laici. Fino alla metà dell'Ottocento il titolo di cameriere d'onore di spada e cappa era quasi sconosciuto fuori di Roma. Col pontificato piano comincia lo stesso sviluppo che abbiamo visto nei titoli prelatizi. Un crescente gruppo di aristocratici e di membri dell'alta borghesia fa la sua comparsa in costumi della corte spagnola sotto Filippo II, quasi come un Don Carlos o un Torquato Tasso, e ciò non solo in occasioni ecclesiastiche. Ho davanti a me, purtroppo non qui, la fotografia di un avvocato borghese di Aquisgrana verso il 1890, deputato cattolico di una certa importanza, uomo serio o composto, vestito così come se fosse uscito da un quadro vivente, ma apparentemente senza alcun segno che denoti in lui consapevolezza di un certo ridicolo. E non era ridicolo, l'abbigliamento era la ricompensa del Santo Padre per tutta una vita dedicata alla difesa dei diritti imprescrittibili della sua Chiesa. Quarto, oltre a questi titoli, il rifiorire delle divise dell'Ordine di Malta e soltanto più tardi dell'Ordine del Sansepolcro. Ancora verso il 1960, uomini d'affari, industriali e uomini politici cattolici indossavano pubblicamente il mantello bianco largo di quest'ultimo ordine, più facilmente accessibile dell'Ordine di Malta. In Francia, Italia e Spagna sembra che i titoli nobiliari papali abbiano giocato un ruolo importante. In Germania e Austria, dove vigeva una legislazione nobiliare molto rigorosa che escludeva quasi totalmente titoli stranieri, questi non potevano essere usati, ma negli altri stati sì, perfino all'Inghilterra. Leone XIII conferiva regolarmente titoli di duca, marchese e conte. Ma non sappiamo quasi nulla su questo campo così interessante. Il fatto che tutti questi titoli venissero distribuiti dopo versamento di forti tasse non rappresentava una esclusività curiale, questo era anche nella Germania, le piccole corti tedesche hanno anche quasi venduto titoli nobiliari. Era un uso riscontribile ovunque si conferivano diplomi nobiliari. Quinto, un'espansione molto più grande avevano gli ordini equestri pontifici. Il vecchio sistema degli ordini equestri della Corte di Roma era stato fortemente influenzato dal sistema degli uffici vacabili, cioè da cavalierati che si compravano e che sfruttavano una certa rendita. Non sappiamo molto della fine di questo sistema in vigore nei secoli del 600 al 700, del 500 al 700. Sotto Gregorio XVI, Tutti gli ordini furono completamente riformati ed adattati ai bisogni moderni. Nuovi ordini sequestri furono creati sotto Gregorio XVI e Pio IX e modellati sullo schema degli ordini di merito con 3 o 5 classi, con le insegne quasi convenzionali, note in tutti gli stati europei dell'Ottocento e soprattutto portabili sulle divise militari o il vestito borghese. Questi ordini permettevano alla corte di Roma di concorrere nella grande gara del mondo diplomatico-militare. Sebbene il prestigio degli ordini pontifici non potesse mai avvicinarsi a quelli degli ordini delle grandi potenze o gareggiare con quelli di merito militare, non di meno era un altro mezzo per ricompensare la lealtà di tanti promotori del movimento cattolico per dare un indennizzo alle famiglie nobili rimaste fedele alla Santa Sede e perciò escluse dagli ordini italiani, tedeschi o francesi, e di sostare nel mondo diplomatico internazionale dove non si contava senza questi bellissimi giocattoli. Adesso, e solamente adesso, si capisce la reale importanza di tutti questi onori di corte. Il cattolicesimo era dopo il 50-60 in tutta Europa politicamente battuto e in una situazione di difesa, di minoranza, di inferiorità causata dal non expedit e dal non postumo. Cioè ciò comportava anche una esclusione dei cattolici dalle fonti degli onori e del prestigio sociale in quasi tutti gli stati, cioè soprattutto in Italia, Germania, dopo il 1878 in Francia, nel Belgio, Svizzera, Russia, spesso anche in Austria. La nobiltà cattolica, spesso legata al sistema politico metternichiano, reazionario, bonapartista, borbonico, carlista, si vedeva spesso esclusa dalle decisioni politiche, esclusa dagli impieghi diplomatici, esclusa persino dagli onori delle corti. All'alta borghesia cattolica erano spesso precluse le carriere più splendide e anzi non di rado anche gli ingressi nei servizi statali interessanti. In Germania per generazioni questa esclusione produsse un sentimento di rancore e anche di inferiorità verso l'élite liberale che a sua volta subiva un processo fondamentale di rifeudalizzazione negli anni fra 1870 e 1914. Diversi storici tedeschi hanno descritto questa rifeudalizzazione della borghesia, fenomeno molto vicino a quello che studiamo in questa sede e che ha le sue radici profonde in un senso finora inesplicato di inferiorità verso lo splendore della corte e il fascino dei titoli nobiliari. I grandi romanzieri della fine dell'Ottocento non hanno solamente descritto questo buco nero nell'anima borghese, ma lo hanno posto al centro dei loro temi. Parlo per la Francia di un Marcel Proust o per la Germania di un Theodor Fontane. Solamente qui siamo nel cuore di tutto il problema che ci siamo proposti. Problema non diverso alla corte di Roma da quello di altre capitali. Perché la borghesia così orgogliosa e liberale, così antifeudale e progressista, dopo aver vinto i cortigiani, i codini, i reazionari, capitolava davanti al fascino smagliante delle croci equestri, delle divise di gala, delle piume sull'elmetto, degli stivali da ufficiali della Guardia del Corpo? Perché dopo tante lotte veniva l'Italia dei commendatori, la Germania dei tenenti di riserva e quella Francia repubblicana dei falsi baroni, come per esempio Giscard d'Estaing? E tutto questo nel pieno meriggio della forza oggettiva del mondo borghese. La fioritura secondaria della Corte di Roma dopo il 1878 non è altro che la partecipazione a un processo comune in tutta Europa. La Curia rispondeva ad una domanda, ad un vero bisogno del suo settore sociale. veniva incontro ai vecchi ceti tradizionalmente ad essi legati, come ai nuovi ceti in ascesa e bisognosi di un riconoscimento che il dominante liberalismo negava loro. Mi sembra una delle più importanti giustificazioni per nuove ricerche sulle corti moderne questo fenomeno che la storiografia tradizionale e anche la moderna e modernissima hanno finora completamente trascurato. Del fascino esercitato durante tutto l'Ottocento fino alla fine del fascismo dai simboli di potere e di nobiltà, della gerarchia e classificazione sociale. Questo complesso di simboli di Stato che provenivano dalle corti, tutte le cerimonie del nazionalsocialismo e del fascismo, la perseveranza di questi sistemi simbolici anche dopo il 1945 e anche in paesi socialisti non possono essere intesi se non si conoscono le feste e le rappresentazioni di corte. Tutto il trauma profondo vissuto dalle vecchie e nuove élite nell'epoca del fascismo nei confronti della temuta società di massa, nella quale non si aveva più distinzioni, dove non era più possibile restare un signore, si capisce solamente conoscendo il valore insostituibile che avevano nella psicologia dell'uomo preindustriale le distinzioni gerarchiche emananti della corte. L'ufficiale tedesco ritornato dalla prima guerra mondiale, al quale gli spartachisti strappavano le epaulette, i nobili austriaci ai quali la Repubblica vietava i loro titoli, rimanevano profondamente feriti. Nello stesso meccanismo psicologico, i titoli pontifici avevano una funzione importante di compensazione in un mondo ugualitario, o almeno capito come ugualitario. Così concepite, le ricerche sopra le corti moderne possono portare alla luce un aspetto del problema della modernizzazione molto importante, cioè le più intime resistenze, quasi sempre tacciute, perché moralmente non più accettate dalla morale borghese stessa. La resistenza a una piena degerarchizzazione della società, anche nel campo della più visibile e palpabile simbologia. La morale borghese aveva criticato la corte assolutista, ma, come si poté vedere solo più tardi, unicamente per invidia, direi. Dopo aver conquistato il potere, subentrò nella borghesia una vera e propria fame per le tradizionali forme del palazzo. Questo profondo cambiamento nella mentalità delle classi dirigenti d'Europa fra il nostro tempo, in questo tempo, si spiega perché il prestigio della corte di Roma era salito così visibilmente. Di questo nuovo prestigio sono testimoni magnifici libri di rappresentazione editi verso il 1900, libri che hanno conservato un valore documentario incontestato. Per la prima volta, sia per la piena utilizzazione dell'arte fotografica, sia per l'approccio storico-scientifico, forniscono le immagini visibili dei costumi, degli impegni, dei locali, dello svolgimento delle cerimonie nel Vaticano. Questo livello di autocoscienza e sicurezza del proprio valore rimaneva intatto fino a Pio XII, per subire una profonda crisi al tempo del Concilio Vaticano II e di Paolo VI, che non amava la corte di Roma, quando la critica al trionfalismo riuscì in pochi anni a distruggere il sistema. C'è ancora tempo per il quinto, possibili ricerche future, questo è l'ultimo capitolo. Dato il fatto che la scienza storica non si è mai seriamente occupata della corte papale dell'Ottocento, un'indicazione per ricerche future comporta quasi un coinvolgimento di tutte le correnti storiografiche odierne. Perciò i nostri temi non possono che essere brevi e quantitative limitati. quantitativamente limitati. Primo, la storiografia amministrativa tradizionale troverebbe un ottimo campo di indagine nella semplice, in virgolette, ricostruzione dei quadri organizzativi della Corte, descrizione esatta del personale, dei ranghi gerarchici, storia dei diversi corpi della prelatura e dei camerieri laici, il loro pagamento, il numero e la scelta di tale personale, la storia dei locali usati nel Palazzo Apostolico, gli spazi di tempo riservati al cerimoniale dei corpi, ricostruzione positiva delle diverse cerimonie, eccetera. Tutto, tutto da fare, nel senso più positivistico possibile, è tutto da fare. Ogni discorso che evita queste lacune rimane inutile. Secondo, una storiografia delle espressioni simboliche, nota soprattutto in Francia per tutti i settori della vita umana, potrebbe occuparsi di tutti i simboli della corte pontificia e anche dello stato pontificio, cioè quali simboli si trovano usati nella corte, con quale finalità, con quale funzione. Quali simboli sono stati inventati per simbolizzare il processo secolare di sviluppo di una corte assolutista con il mondo borghese e delle masse? Qui, storia dei costumi dei cardinali prelati. Quali colori sono usati? Il simbolismo dei colori è da prendere in riguardo. Quali sono i regolamenti concernenti i costumi e quali sono le giustificazioni? Per esempio, gerarchie dei colori, c'è una gerarchia di colori, delle stoffe, delle spese consentite. Questo interesse si potrebbe anche estendere ad altri campi, per esempio cocchi, cavalli, arredamento in casa, la corte dei cardinali con il loro canone. Sempre sotto questo secondo punto, storia dell'etichetta nel senso stretto. Come si sviluppava l'allontanamento del sovrano dal popolo? Chi era ammesso regolarmente o casualmente alla sua presenza? Quali erano le forme di convivenza usate dagli altri partecipanti alla corte? Quali erano le forme di cortesia orale e scritta? Esistevano regolamenti in proposito? Qui si inquadra la storia della precedenza, storia verosimilmente bene documentata, perché c'erano tutte congregazioni cardinalistiche che si occupavano della precedenza. Ma anche la vita domestica dei cortigiani era forse regolata. Da quando esistono precetti precisi sopra la casa e il personale dei cardinali e il comportamento, esistevano regolamenti analoghi per la nobiltà romana. Storia degli ordini ecclesiastici e del diritto nobiliare dello Stato Pontificio. In questo vasto campo regna un sovrano dilettantissimo, deplorato da legge in altra sede. La storiografia universitaria sembra evitare con uno strano pudore questa realtà storica ed umana, forse perché arriva proprio vicino al grande tabù del mondo borghese, quello di aspirare anch'esso allo splendore arcaico espresso da tali simboli, che vanno ben al di là di una semplice espressione di merito. Per la corte romana in questo campo quasi tutto resta da fare. Terzo, una storiografia della mentalità potrebbe occuparsi, oltre a ciò di cui abbiamo accennato, delle espressioni letterarie sopra la corte di Roma, racconti di diplomatici e di letterati, le relazioni della corte di Roma con le continuazioni ottocentesche che offrono sempre giudizi degni di nota. Le relazioni di corte di Roma hanno la sua nascita, la sua conseguenza nei giornali, insomma, nel giornalismo vaticano, che era un campo specializzato per certi vaticanisti che si occupavano sempre del Vaticano. Meno noto sono i ricordi e le impressioni di protestanti convertiti al cattolicesimo sopra la maestà di Roma, ecclesiastici vissuti a Roma, eccetera. Poi una fonte molto diretta, dimenticata, le prediche nel Palazzo Apostolico, almeno qualche volta stampate. Non esiste una bibliografia delle... I più noti predicatori apostolici stampavano le loro prediche e danno un'ultima visione dei problemi anche di coscienza dei prelati. E forse esistono anche lezioni universitarie lette nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Quarto, una storiografia prosopografica. Questo metodo, che sembra molto promettente e che fu sviluppato soprattutto in Francia e in Inghilterra, non si rivolge a un solo personaggio, a evoluzioni sociali di massima generalizzazione, né alla politica diplomatica o a una storia delle idee, ma opera in una dimensione che partecipa di tutte queste angolazioni senza risolversi in esse. Cerca di isolare un gruppo sociale ben definito, numericamente non troppo elevato, per poter nel caso dato anche individuare singoli membri, e di constatare i tratti comuni e le differenze interne e verso l'esterno di un tale gruppo. Il presupposto tacito di tutta la prosopografia consiste nel fatto che ci sono fra individui e famiglie da una parte e le grandi entità generali come nazioni o classi sociali dall'altra parte veri gruppi intermediari che sono capaci di agire, di sviluppare un interesse e una coscienza propria. Da qui nessuna meraviglia che il campo più fecondo di queste ricerche siano stato i potenti corpi nobiliari, oligarchici e giudiziari, parlamentari dei secoli del 600 al 700. In Francia questo è un largo campo di lavori. Un tale approccio prosopografico sociale ricostruisce i tratti comuni di uno certo milieu, soprattutto la provenienza sociale, l'educazione e gli studi, la consistenza finanziaria, la carriera normale in un certo ambito amministrativo, il circolo delle famiglie fra le quali hanno luogo i matrimoni, l'ambito geografico del gruppo, il potere politico, amministrativo ed economico esercitato, il ruolo di questi gruppi alla corte e, se possibile, la mentalità collettiva. Un tale metodo può anche essere applicato alla corte romana. Gli annuari pontifici esistono per l'Ottocento, anche già per il Settecento, questa è una cosa interessantissima, e con essi sono reperibili molti dati fondamentali. Sarebbe un lavoro faticoso, sì, ma non difficile e rischioso, quello di compilare un catalogo biografico statistico dei cardinali e prelati della corte. Esistono nella Biblioteca Apostolica Vaticana molte piccole biografie di tali personaggi, non solo dei cardinali più influenti, ma per esempio anche dei religiosi appartenenti alla corte e dei prelati minori. Esistono inoltre moltissime opere e articoli concernenti le famiglie nobili, ma sarebbe anche possibile gettare luce su quella parte della borghesia romana tradizionalmente legata al Vaticano che fu chiamata il Generone. Il materiale stampato è già molto ricco, ma anche liste inedite attendono un ricercatore che le tragga da un sonno secolare. Da qualche anno la serie importantissima dei ruoli di famiglia della Corte di Roma, che con poche lacune coprono tutto lo spazio fra il 1585 e il 1846, è catalogato e si offre a una edizione o almeno ad uno sfruttamento sistematico. Ivi sono enumerati tutti i membri della corte con i loro stipendi, anno per anno, e con ogni nuovo pontificato di nuovo. Una seria ricerca dovrebbe cominciare qui. La ricerca prosopografica trova un'applicazione importante nell'analisi della carriera o delle carriere che erano per gli uomini dell'assolutismo al centro della vita, non meno che per gli appartenenti a quel mondo borghese ove il merito personale soppiantava la grazia del sovrano, ma dove la nobiltà sociale di una società differenziata permetteva un'ascesa rapida e spesso vertiginosa, e dove la lotta per la sopravvivenza costringeva l'individuo a sostenere le durezze di tale ascesa e di tale lotta. Come Norbert Elias ha sottolineato, la concorrenza dei cortigiani per un maggior prestigio e poi per una carriera migliore è uno dei dati fondamentali di ogni corte. Qui posso limitarmi e rimandare a quanto emerso dalla mia ricerca sopra le carriere della corte di Roma sotto Pio IX. Quanto al tardo Ottocento, sarebbe certamente proficuo studiare quei dirigenti del movimento cattolico italiano che per un rango di corte appartenevano al Vaticano. Troviamo per esempio il conte pontificio Giovanni Acquaderni nel 78 già, Stanislao conte Medolago Albani come camerieri segreti di spada e cappa soprannumerari, e moltissimi membri della nobiltà nera, non solo di Roma ma di tutta Italia, reclutati in questa categoria. Interessantissima la parata che fanno anche i membri nobili tedeschi del Partito del Centro, sono molti nomi: Balestren, Drost, Galen, i più bei nomi della nobiltà cattolica tedesca, che appartenevano come camerieri alla corte di Roma, che intimamente preferivano a quella di Berlino, e che comunque era la sola corte che li riceveva volentieri. La ringrazio.